tuffo in fondo al cuore. Oh, oh, oh, oh. L'amore mio sei tu. È stato all'improvviso. Oh, oh, oh. E non ragiono più. Hai gli occhi più blu del blu. Sorridi soltanto a me. E niente io so di te. È meglio così. L'amore è tutto qui. L'amore è già finito. Oh, oh, oh, oh. Oh, ah. L'amore viene e va. Un po' di dispiacere. Oh, oh, oh, oh. Ah, e dopo passerà. Due occhi più blu del blu. Domani ritro. Sempre così. Babbo, l'amore è tutto qui. Due occhi più blu del blu. Domani ritroverò più belli dei tuoi. Lo so, è sempre così. Babbo, l'amore è